Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. Per quanto noi possiamo fingerci moralisti, per quanto noi possiamo rappresentarci come persone per bene, per quanto noi ci sentiamo investiti di una missione educativa nei confronti del pubblico che ci ascolta, e parlo di noi come conduttori radiofonici, è logico che per noi è impossibile non prendere la nostra fetta di responsabilità sul fatto che alla fine l'alcol sia stato anche nella nostra travagliata avventura esistenziale a volte un compagno piacevole. Sbevacchiare fa piacere, l'alcol si è preso nella giusta misura o anche nella misura sprocedata, però con le garanzie di sicurezza tali per cui la bevuta l'elaborazione, lo smaltimento degli effetti della bevuta si faccia in un luogo sicuro, tranquillo, non al volante della propria automobile, può essere un'esperienza anche raccontabile. L'alcol diventa, nel suo uso compulsivo, comunque una sorta di fluidificatore di relazioni. Nelle relazioni multiple, multiple intendo corali, intendo collettive, intendo i ragazzi che passano il sabato sera nelle piazze davanti a un pub o davanti a una birreria o davanti a un locale che fa aperitivi o fa cocktail con il bicchiere in mano, in piedi parlando. A quel punto l'alcol diventa il pretesto dell'incontro e diventa anche il collante, il fluido che facilita l'incontro. Questa è un'abitudine che è sempre più entrata nelle nostre città, che ha creato comunque anche dei problemi. I problemi sono quelli di abuso, i problemi sono quelli in cui non ci si accontenta di prendere l'alcol come un incentivo, un additivo alla nostra timidezza, ma l'alcol diventa una sorta di elemento anestetizzante della nostra equazione umana e quindi ci si sbornia soltanto, ci si fa soltanto. E quindi sono le madri ad andare a riprendere i figli in coma etilico, figli molte volte minorenni, nei pronto soccorsi di varie città. Beh, questo è un tema che abbiamo molto toccato, anche qui ci sono stati episodi di cronaca abbastanza noti e celebrati rispetto all'abuso dell'alcol in piazza nelle città italiane. Maurizio, buongiorno. Sì, buongiorno Nicoletti. Guardi, io, come dice lei, io ho 60 anni, quando avevo 27, 28, sono andato. È un vecchio bevitore, quindi. Ma sì, andavo in discoteca, mi divertivo. Finché c'è una cosa che penso vale anche adesso: che ti tocca di persona, o che ti muore un amico, o qualcuno che ti è vicino, che conosci. Io ho fatto un'iniziativa allora, perché proprio ci sono rimasto Chi gli è male. morto lei? E ho preso A chi gli è l'appunto del morto, Maurizio? giornale. A lei chi è morto per l'alcol? Due amici, uno prima e uno dopo. Ma Il in che senso sono secondo, morti? Sono morti per un incidente o perché bevevano? incidente perché comunque erano bevuti. Incidente con la macchina, tutti e due. Io cosa ho fatto la seconda volta? Non so neanche perché, però ho visto che è servita. Ho preso la foto del giornale, l'ho fatta ingrandire. La foto del ragazzo, di questo ragazzo qua, Matteo, col permesso dei genitori, sono andato in una discoteca dove andavamo sempre, in due discoteche, col permesso della discoteca ho messo fuori questo manifesto con scritto: ciao ragazzi, sono Matteo, qualcuno di voi mi conosce, chi no? Andate piano, voi siete a divertirvi, io sono qua, sottoterra. Questi ragazzi mi hanno, poi mi hanno anche ringraziato, io non so se è servito, secondo me sì, e questa cosa l'ho proposta anche a mio figlio, che va in discoteca, mi raccomando, queste cose qui, vedi cosa è successo, e queste cose fanno pensare se ti toccano da vicino. Io so che è servita un po'. Certo, mi fa pensare una cosa, Maurizio, quanto poco ci siamo evoluti come alternative di divertimento. Cioè lei ha 66, 61 anni, abbiamo la stessa età più o meno. Parliamo di discoteca come qualcosa che appartenga alla nostra generazione, ancora i giovani vanno in discoteca. Chissà perché la discoteca da almeno 40 anni rappresenta il luogo della trasgressione, dell'uscita dalla regola, allo stesso tempo Certo. anche il luogo dei pericoli. Forse sarebbe il caso che si inventasse qualcos'altro nella discoteca. Ancora discoteca, ancora ha un senso ancora pensare che si esca la sera e si vada in discoteca. Una domanda che faccio. Franca Beccaria, buongiorno. Buongiorno. La dottoressa Franca Beccaria è già stata nostra ospite, è una sociologa, è una dei fondatori di Eclectica, che è un'agenzia torinese che fa progetti di ricerca proprio per capire quelli che sono i rischi che vengono da stili di vita non esatti. Ha realizzato una ricerca su giovani, alcol e divieti, ha anche scritto un libro, Alcol e giovani, riflettere prima dell'uso, di Torre Giunti, che, di cui abbiamo parlato in questa trasmissione. Intanto, da torinese, la risposta proibizionistica ai fatti della finale della Champions, secondo lei avrà un senso, avrà un risultato, sortirà qualche effetto? Ma forse nell'immediato sì. Intanto sono una torinese che ha l'ufficio, l'istituto in San Salvario proprio, quindi in una delle zone interessate dall'ordinanza. Io penso che nell'immediato sì, già parlando con alcuni ragazzi mi dicevano che in queste sere non si trovano alcolici dopo le 8 nei mini market e quindi l'ordinanza sembra in prima battuta essere rispettata. Perché dico nei primi giorni e nel primo periodo? Ma perché la restrizione degli orari, almeno questo è quanto emerge dalla nostra ricerca in cui abbiamo posto delle domande proprio specifiche su questo punto, viene giudicata dai giovani una normativa inutile perché comunque non sarebbe rispettata da tutti gli esercenti e perché soprattutto... Certo, ragazzi... è un po' difficile pensare San Salvario senza alcol dopo le 8, su quello c'è la gente, io ho passato serate bellissime col Margarita a San Salvario e se, no, se dovessi bere l'aranciata non ci andrei, questo è logico. Certo, certo, quindi questo è un problema sicuramente per tutti quei locali che si sono moltiplicati in questi anni nella zona, ma in realtà poi quello che stupisce è che i ragazzi sono già pronti per soluzioni alternative, quindi bisogna capire qual è la ragione di questa ordinanza. Beh, chiaro, ci sarà una transumanza in luoghi dove sia possibile bere. Allora, pensi che mi dicevano, che io non l'ho verificato di persona, ma che è uscita un'app, sta per uscire un'applicazione che dà indicazioni dei luoghi dove è possibile mini market o altri negozi o bar acquistare alcolici nelle zone immediatamente limitrofe. Parliamo anche di zone che non sono non hanno un'estensione, cioè, non voglio dire cose che potrebbero essere prese male, dottoressa Beccaria, ma la sa, a Roma è diffusissimo il fenomeno, penso anche a Torino, di questi drugstore tenuti da ragazzi del Bangladesh che sono aperti tutta la notte. Lì si vende di tutto, anzi hanno un frigo con raffinatissimi superalcolici e birre artigianali di tutti i tipi, insieme alle mele, alle zucchine e agli ananas, quindi è chiaro che servono per quello. Assolutamente, ma questo anche a Torino, in San Salvario, in Vanchiglia, ci prendiamo in giro. Ci stiamo prendendo in giro, ma soprattutto io penso che sia molto pericoloso anche il messaggio che diamo ai giovani, perché certamente ci sarà un numero, io penso anche minimo, che verrà dissuaso dal bere o dall'abusare da questo tipo di ordinanza. Gli altri saranno spinti, più giovani, verso ancora un maggior gusto della trasgressione. Le norme, come dire, esercitano un fascino. Scusa, perché per lei non funziona così. Cioè, se io abitassi a San Salvario come lei, mi avrebbe subito voglia andare a cercare i posti clandestini dove si beve. Ma se avessi 20 anni, ancora di più, sinceramente. Certo, infatti io devo pensiamoci a 20 anni, anche meno. Pensiamo al fatto che già oggi c'è un divieto di vendere alcolici ai minori di 18 anni, eppure sappiamo che questo divieto non solo non è rispettato e poco rispettato dagli esercenti, ma laddove è rispettato, i ragazzi si sono inventati delle misure per evitarlo. Banalmente fanno comprare gli alcolici dall'amico che ha 18 anni e un giorno. Per quanto invece riguarda gli orari, un altro rischio è quello che i ragazzi tornino a chiudersi in casa a bere, perché comunque prima delle 8 gli alcolici vengono venduti in tutta la città. Poi ci fermiamo un istante solo, dottoressa Franca Beccaredo, dare la pausa. Il passo avanti sarà proprio questo: vorremmo capire assieme a lei e assieme ai genitori come trovare questa sorta di algoritmo perfetto, ammesso che sia possibile, di tutelare i giovani dagli abusi, ma nemmeno vietargli una normale, sana relazione condita con un po' d'alcol. A tra poco. Melog, cronache meridiane. Parliamo di forme di controllo per la diffusione dell'abuso di alcol tra giovani. Abbiamo parlato della nuova misura di controllo messa a punto dal sindaco, dalla sindaca di Torino, nel quartiere San Salvario, che è un quartiere della Movida, dove ci sono pieno di locali, la gente beve, ma soprattutto c'è l'usanza di mettersi a capannello, sedersi sulle fontane, sui muretti e portarsi anche la bottiglia e bersela insieme agli amici. È stato vietato assolutamente, tassativamente, dalle 20 alle 6 di mattina, di vendere alcolici da asporto, quindi tutte le vendite, i piccoli baretti, gli alimentari camuffati, che in realtà sono delle mesce da tutti gli effetti, non possono vendere superalcolici. Questo crea, come ci ha detto il nostro ospite, l'ingegno di creare un'app dove si segnala dove si può comprare il superalcolico. Però riguardo all'osservanza della legge da parte di esercenti, ma anche di supermercati, di alimentari, di vendere alcolici minorenni, ha qualcosa da dirci l'ascoltatore Umberto. Buongiorno. Buongiorno Nicoletti. E niente, io volevo farti questa testimonianza, siccome un mese fa abbiamo fatto una festa per il compleanno di questo nostro amico, io ho 55 anni e lui pure, e praticamente abbiamo mandato i nostri figli giusto per vedere che cosa succedeva. Quanti anni i figli? Hanno 16 e 15. Quindi minorenni, palesemente. Ce n'era uno solo di 18 anni, che era l'altro figlio del mio amico. E praticamente abbiamo detto di prendere una cassetta di birra, un paio di boccioni di vino e un paio di vodka, perché eravamo una trentina di persone. Preparate una seratina etilica con amici. E dove sono andati no, a acquistare? C'erano anche le mogli, no, c'erano anche le mogli. Forse anche non c'erano le mogli, non succede niente. Insomma, eravamo una trentina di persone. Visto e così abbiamo dato i soldi ai ragazzi, sono entrati dentro e sono riusciti tranquillamente... Quel carrello con... Nessuno ha chiesto documenti, nessuno gli ha chiesto assolutamente, assolutamente. Rita, buongiorno. Buongiorno. L'ascolto. Spero di essere in grado di poter parlare in radio. La mia idea invece ascoltando, avendo 61 anni, no? E io sono, diciamo, una che beve normalmente il mio classico dito di bicchiere a pranzo, a cena, quando capita. Superalcolici non ne bevo proprio. E però quello che mi chiedo, come appunto diceva lei, come mai a distanza di anni ancora è attraente la discoteca con la solita modalità di bere fino allo sballo e nessuno riesce a creare, diciamo, un'alternativa altrettanto sexy ed attraente, dove il modello è totalmente diverso, dove c'è il vero divertimento, cioè la parte ludica della vita, che dovrebbe essere quel momento dopo il lavoro, dopo una, diciamo, giornata e tante giornate che si susseguono in maniera convulsa, star dietro a tutto quanto per una normale, diciamo, famiglia, oppure per esempio per i giovani stesso che devono comunque conquistarsi un posto al mondo. Vabbè, che si divertano i giovani, che nel divertimento ci sia anche qualche alzamento della soglia del lecito, questo ci sta. Che mi preoccupa. No, mi desta perplessità che da Tony Manero, dai tempi della febbre del sabato sera, a Rovazzi, la gente faccia le stesse cose. Ci si metta in un posto ammassati, musica a palla, e ci si imbriaca e c'è sempre le stesse scene. La ragazza ubriaca che tentano di approfittarne, l'ubriacone spaccone che vuole menare tutti, quello che si stende tutto intorno, che fanno le croce rossine, i medici perché si sente male. Cioè le stesse cose vedevo io quando avevo 17 anni, no, 61, 62, manco ricordo. Le potrebbe vedere oggi sua figlia che ha 15 anni. Questo mi sembra la non evoluzione nel territorio del divertimento. Ritorno con Franca Beccaria, ricordo che è sociologa, è una dei fondatori di Eclettica, che è un'agenzia torinese che si occupa appunto di osservare e monitorare gli stili vita. Ha realizzato una ricerca, Giovani, alcol e divieti. Torniamo un pochino a questa sua ricerca, voglio saperne qualcosa di più. Lei si è mai domandata come mai ci sia stata un'omologazione così costante in più di 40 anni nell'area del divertimento e della trasgressione consentita nei giovani? Perché ancora si parla di discoteca e ci sono gli stessi comportamenti che c'erano 40 anni fa, più o meno? Cambiano le sostanze, cambia il tipo di musica, ma nemmeno tanto quella. Ma si fanno esattamente le stesse cose. Sono in parte assolutamente d'accordo con questa sua affermazione, con quella di chi è intervenuto in trasmissione. Sono cambiate molte cose. Allora, vi do alcuni flash. Rispetto alla guida, il signore che raccontava del manifesto che ha fatto girare col suo amico morto, bene, i ragazzi oggi sono molto molto più attenti a mettersi la guida dopo aver bevuto rispetto a quello che facevamo noi. Io ho 54 anni, quindi rispetto a quando noi avevamo 20 anni. Questo è un dato incontrovertibile, testimoniato anche dalla diminuzione degli incidenti stradali collegati all'alcol. Perché tolgono i punti della patente, sono i ragazzi che poi non possono più guidare, quindi ci stanno attenti. È dovuto a due fattori. Uno, una normativa che è entrata in vigore, è stata dormiente per molto tempo e poi ha cominciato ad essere applicata, cioè ci sono controlli, ma controlli che sono mirati soprattutto sui giovani più che sugli adulti, perché se controllassero anche in langa la domenica pomeriggio le famiglie che escono dai ristoranti, forse colpirebbero anche la fascia adulta. Tanti padri di famiglia rimarrebbero sotto l'alcol test. Allora, e questo è un fatto. Rispetto alla discoteca, vorrei dire questo. Guardate che le discoteche sono, negli ultimi credo 20 anni, si sono ridotte del 50%. Cioè la discoteca non è più la modalità di divertimento principale dei giovani di oggi, ed è stata sostituita proprio da quella che chiamiamo movida, cioè dal vivere la città, dal tornare a prendere possesso delle strade, dei centri del cittadino, dove ci sono locali molto più piccoli, ci sono dei disco pub, c'è musica comunque, ma viene fruita con una modalità diversa rispetto alle mega discoteche di un tempo. Quindi è cambiata anche questa modalità. Ultimo aspetto. In questo caso, nel cambio di modalità, come cambia l'abuso di alcol, per capire? Allora, l'abuso di alcol, anche questo cambia e mantiene anche delle costanti, delle continuità. La continuità è che l'alcol continua a essere comunque una sostanza che si presta bene allo sballo, per cui quando si vuole festeggiare, celebrare e anche semplicemente staccare rispetto a una routine, è una sostanza che va molto bene, così come le sostanze illegali, però è più facile da reperire. Quindi in questo senso c'è una continuità rispetto al passato. La differenza è che c'è molta più visibilità. Tutti quelli che sono coloro che sono intervenuti in trasmissione hanno parlato comunque del passato, dove gli abusi c'erano ed erano piuttosto regolari. Qual è la differenza? Che questi abusi venivano quasi sempre in contesti di feste private, nelle tavernette di casa, nei garage, nelle case di campagna. Cioè la visibilità sociale e anche rispetto alla famiglia era molto più bassa. È chiaro che oggi avere massa di centinaia di giovani la notte in giro per la città, e tra questi ce ne sono decine che hanno bevuto troppo, ma non sono tutti. La maggior parte vive una socialità, uno stare insieme che è anche molto sano, che è quello di godere del tempo con gli amici, del divertimento. Tra questi però coloro che si ubriacano sono molto più visibili e soprattutto sono molto più fastidiosi per coloro che vivono in questi quartieri, perché accanto al problema che abbiamo sottolineato del bere e dell'abuso tra i giovani, c'è quello della vivibilità e del diritto alla tranquillità e al dormire di chi vive in questi quartieri. È un'equazione un po' difficile da risolvere, perché quelli che si bussano alle finestre, c'è gente che dorme qui, ci siamo passati tutti, sono i peggior nemici di chi vuole impossessarsi della città con la voglia di viverla anche in maniera gioiosa. Chi vive in dei quartieri dove ci sono tanti uffici, la notte è un mortorio, ci sono solo vecchi che vanno a letto presto e non si vede nemmeno un gatto per strada. Viva la faccia delle città animate da giovani. Certo, è difficile socializzare se non davanti a un bicchiere di buona bevanda alcolica. Si può anche fare, si fa lo stesso, senz'altro, ma è sempre stato il fluidificante meno dannoso delle relazioni negli anni felici della giovinezza, ma anche negli anni della maturità. Piacere di condividere dei momenti di tenerezza, di felicità, di divertimento, di lussuria con un'altra persona, c'è sempre il condimento da qualcosa da bere. E Dino, sentiamo Dino. Pronto? Eccolo, l'ascolto. Buongiorno, salve. Niente, io volevo dire una semplicissima cosa. Si è sempre bevuto e si continuerà a bere ancora per molti anni. Viva la faccia, per fortuna, sai che tristezza. Questo assolutamente. Il grande problema è che ci sono delle regole, forse non funzionano, e qualora ci fossero e funzionassero, nessuno le applica, perché se lei va in un'area industriale alle 5 e mezza del pomeriggio, trova i vigili urbani che fermano gli operai che finiscono il turno di lavoro, se ci torna poi a mezzanotte dove ci sono di tutto e di più, anche che babbari che vendono alcol che non lo potrebbero vendere, o quelle roulotte che vendono panini e vendono super alcolici sotto banco, e lei non trova un vigile urbano neanche a pagarlo, perché è più facile per l'amministrazione colpire e gestire le persone per bene, già cariche di etica e di educazione civica, e non gliene frega niente di andare a fare una sorta di politica di pulizia o di osservazione. Ma lei dice che in realtà gran parte dello smercio di alcol fuori dal recinto delle regole è venduto in maniera abusiva. Sentiamo Franca Beccaria se è d'accordo con questo, che in realtà più saranno ferre le regole, più le misure di sicurezza rigide, e più si alimenterà, come durante il proibizionismo d'altronde, lo smercio clandestino o in luoghi non autorizzati, è così? Beh, questo sì, certamente, sta proprio ormai nella storia, no? Che lei ha citato il proibizionismo, credo che se andiamo a vedere quel periodo storico ci ha insegnato come si beveva tantissimo, si vendeva sotto banco di tutto, tra il resto di per lo più prodotti di pessima qualità. Quindi direi che da questo punto di vista non ci sono dubbi. Con l'ascoltatore non sono d'accordo rispetto al fatto che si colpiscono le persone per bene e non queste situazioni che riguardano i giovani. In realtà i giovani sono in genere più colpiti dai controlli rispetto agli adulti. Abbiamo al telefono Enrico. Enrico, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Nicoletti a tutti. Allora guardi, io faccio il sommelier di professione. Sono stato nel 2014 il miglior sommelier del Veneto, perciò sentir parlare di alcolici in questa maniera porti pazienza. Proviamo a vedere il problema, tra virgolette, sotto un punto di vista nuovo. Ho capito, lei fa il sommelier. Vede un ragazzino in una pozza di vomito buttato su un marciapiede, un'altra cosa. Se lei va a casa, lei ha figli, comincia a dire a suo figlio, non devi bere, perché il tuo fisico, fino a 18 anni, non riesce a digerire l'alcol. Ed è inutile che tu vada, perché fai solo che disastri. Sì, però guardi, Enrico, è un mantra che tutti i genitori dicono. Quando ci vanno tutti i compagni di scuola, chi non va con loro è considerato uno sfigato e soffre molto di più di quanto potrebbe soffrire a farsi l'ubriacatura che sa benissimo che gli fa male. Non è un problema che si risolve così facilmente. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta Melog, cronache meridiane. Visto che questa è la mattina in cui parliamo delle trasgressioni, soprattutto le trasgressioni che vengono attribuite, non sempre naturalmente ragione, alla fascia giovanile, sono quelle che fanno impensierire i genitori. Cosa farà mio figlio quando esce? Si attaccherà alla bottiglia, tornerà ubriaco, correrà dei pericoli, fumerà, si farà le canne. Ecco, su questa seconda evidenza, che è quella naturalmente dell'uso di droghe, non voglio qui fare distinzione, leggere, pesanti, medie, via dicendo, è uno dei crucci dei genitori. E come si ovvia questo cruccio? Beh, una volta semplicemente giocando sulla coscienza, facendo grandi ramanzine, portando degli esempi edificanti, o peggio ancora, inveendo, urlando, arrabbiandosi, minacciando, impugnando la sacralità della linea di comando familiare. Oggi molto più semplicemente ci si rivolge a un investigatore privato che attraverso alcuni strumenti tecnici può dirci il grado di consumo, assuefazione nostro figlio di sostanze psicotrope, e di questo abbiamo ampiamente parlato. Su 10 persone in un liceo di Milano quanti fumano? 9. C'è molta gente che se le fa a scuola, esatto, prima della lezione. Su 10 persone che conosci qua dentro quante fumano? 7 su 10 sicuro. 8 persone fumano canne, sì. Su quelle cose. Regolarmente? Sì. Perché è facile trovarla? Sì, diciamo che è facile. Basta conoscere la persona giusta. Esatto, sono contatti, conoscenze. Su 10 quanti fumano? 9 e mezzo. Non lo so, cioè non voglio mica fare lo sbirro. Io sono favorevole alla legalizzazione. Qualcuno contrario alla legalizzazione?